si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Intanto rinnoviamo subito i contatti, perché noi aspettiamo le vostre segnalazioni, che arrivano sempre numerose, le vostre buone notizie, insomma le buone pratiche, quelle che ci rincuorano un po' dopo una settimana di cronaca che ci lascia sconfortati. Allora, su Facebook si può fare Radio 24 e poi seguiteci anche su Twitter, si può fare 24. Potete chiamarci anche sulla segreteria telefonica, dove continuiamo a ospitare le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto. 800 28 12 12. Se ne avete, insomma, di ricette, sono ben accolte. Per esempio, cose così. Adesso siamo contenti questa settimana di poter celebrare, e speriamo che porti fortuna alla nazionale di calcio, la maglietta tecnologica, ma soprattutto ecosostenibile, fatta con poliestere riciclata al 100%. Insomma, l'avrete saputo. Prandelli l'ha salutata con grande simpatia. Pensate che permette la traspirazione grazie anche a degli inserti di cocona ottenuti dal carbone attivo dei gusci riciclati del cocco. È una cosa pazzesca, ma pare che sia così. Chi frequenta, bazzica, insomma, la sostenibilità e i tessuti naturali, sa che, insomma, naturali in questo caso no, ma sostenibili perché riciclati, sa che tutto questo è possibile. Sarà pure un'iniziativa di marketing, quello che volete voi, però proprio qua la cosa positiva, perché cosa fa il marketing? Va a battere sulle cose che funzionano. Evidentemente vuol dire che l'attenzione per l'ambiente adesso funziona, c'è questa consapevolezza. Manca solo che se ne accorga anche il governo, facendo che non c'è e che ci sarà un piano nazionale di incentivi per la sostenibilità, e saremo tutti felici e contenti. Questa notizia qua invece viene da Reggio Emilia. Bei segnali, proprio in un momento in cui il paese è un po' tutto slegato, il Parlamento non riesce a decollare, insomma, eccetera eccetera. Sentite, a Reggio Emilia in 85 si riducono lo stipendio per assumere 29 colleghi e precari. Capita alla IFOA, dove hanno deciso di ridursi del 5% lo stipendio e le ore di lavoro per permettere a 29 lavoratori di essere regolarizzati con contratti a tempo indeterminato. Insomma, è un'iniziativa di solidarietà, grazie alla quale si sono stretti tutti insieme, piccoli sacrifici però, e poi queste 30 persone adesso hanno un lavoro. Ecco qua una bella notizia. Poi, questa è una segnalazione che viene dall'Università di Pisa. Se siete degli smanettoni, degli amanti delle nuove tecnologie, segnatevi questa notizia qua. L'Ateneo di Pisa cerca volontari per tracciare i domini internet. Basta scaricare una app, si chiama Portolan ed è un progetto del Dipartimento di Ingegneria fatto insieme al CNR. La app Portolan è già disponibile gratuita per Android, mentre è in preparazione anche la versione per gli iPhone della Apple. Io non so assolutamente di cosa si tratti, però se è una cosa di ingegneria del CNR, deve essere una cosa seria. Chi ha capito di cosa stiamo parlando ed è interessante, insomma, si faccia avanti. Queste sono le notizie cruciali, quelle cose che saranno forse in un futuro in grado di cambiare il mondo. Adesso andiamo ad iniziare. Prima di tutto una notizia: nasce Alma Cube, l'incubatore per le startup innovative. Si tratta di una società di capitale dell'Università di Bologna e di un'industria Bologna, per aiutare i giovani talenti dell'Ateneo verso un percorso imprenditoriale di successo. In pratica la speranza è di facilitare la nascita di startup proprio dai banchi delle università, una delle tante iniziative che cerca così di fare in modo di arginare questa cosiddetta e benedetta fuga dei cervelli. Partiamo da questa notizia per parlarne con uno degli animatori di una nuova iniziativa che si chiama Io Voglio Restare. Buongiorno a Federico Esposito. Buongiorno a tutti. Io Voglio Restare è una pagina internet, è una serie di cose, è un appello di una generazione, se vogliamo così darla in grande intanto, che chiede che cosa, Federico? Allora, come dicevi, insomma, io voglio restare, è l'appello della generazione che non si arrende, no? È un appello che è stato lanciato a fine ottobre dell'anno scorso, del 2012, e che in poche da 145 promotori, insomma, presi da varie realtà dell'associazionismo diffuso, dal mondo dei sindacati, dai lavoratori precari, dagli studenti universitari, che insomma pone alla politica e comunque all'opinione pubblica una serie di questioni che poi riprendono quelle che sono le questioni generazionali, cioè il fatto soprattutto che è rinchiuso o racchiuso sinteticamente nello slogan, cioè cambiare il paese per non dover cambiare paese. È appunto una campagna che prova in qualche modo a mettere attenzione sulle tematiche della nostra generazione e che insomma pone l'accento soprattutto su quelle che sono le tematiche del welfare, del lavoro, dell'innovazione, dei saperi, della libertà, sì, dei saperi e quindi della nuova occupazione. È un appello che, dicevo, è stato lanciato lo scorso ottobre e che ha raggiunto in poche settimane circa 1500 adesioni, sì, e poi da queste insomma adesioni si è passati ad un'assemblea nazionale che abbiamo fatto a Firenze all'inizio novembre. Ma voi siete ottimisti o no? Insomma, ce la possiamo fare? Questa cosa che sta crescendo vi rincuora? Sì, no, ci rincuora soprattutto per il fatto che dopo l'assemblea nazionale che abbiamo fatto a Firenze, sì, la prima assemblea nazionale che abbiamo fatto a Firenze con oltre 300 partecipanti, sono stati, come dire, sono partiti comitati territoriali in diverse zone d'Italia. Io vengo da Napoli e il 9 marzo, insomma, abbiamo lanciato un'assemblea regionale che portava avanti appunto i temi della campagna e in queste settimane stiamo appunto lavorando alla nascita dei comitati territoriali in Campania che a breve dovrebbero insomma, io penso che sì, una serie un gruppo di pressione vero e proprio, cioè comitati insomma nelle varie città, un appello per fare pressione su chi di dovere, per cercare di realizzare anche proprio dei progetti e fare in modo che da arginare questa fuga dei cervelli. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con Federico Esposito della, come la possiamo chiamare, una rete Io Voglio Restare, che cos'è Federico? Una campagna Io Voglio Restare, abbiamo spiegato abbastanza approfonditamente di che cosa si tratta. Dicevamo però, restare in Italia per i giovani possesso di titolo di studio e comunque che vogliono costruire il loro futuro in questo paese, per fare che cosa? Perché sappiamo spesso che c'è una differenza tra quelle che sono le aspettative, quello che poi è il mondo reale. Si dice ci sono pochi tecnici, pochi laureati in ingegneria, troppi laureati in scienze delle comunicazioni. Secondo te, che stai portando avanti questa battaglia, restare in Italia per fare che cosa? Ma restare in Italia per avere l'opportunità di costruirci il nostro futuro, di lavorare qui, di offrire le opportunità di sviluppo anche ai nostri territori. Il tema dei cervelli in fuga è secondo noi centrale in quest'ottica, cioè noi ci siamo, ad esempio a Napoli, io vengo appunto dalla Campania come dicevo prima e sono tra l'altro uno dei laureati in scienze della comunicazione di cui parlavi. L'ho beccato subito, no, ma non è che ce l'avevo con te o con chi si laurea in questa cosa, ma figuriamoci, è un discorso generale che ogni tanto sentiamo fare. Sì, no, ti dicevo, c'è uno studio, sì, insomma, del Centro Ateneo della Federico II sulla comunicazione e sull'innovazione che fotografa in maniera esemplare la dinamica, insomma, dei cervelli in fuga, dove su 2.000 intervistati circa il 34% lavora fuori e all'estero ha raggiunto una posizione, come dire, apicale all'interno delle aziende in cui lavora. Ecco, noi queste cose vorremmo farle in Italia e per farle, ad esempio, faccio sempre l'esempio del Comitato Campano della Campagna, ci siamo dati degli strumenti, abbiamo deciso innanzitutto di fare uno studio analitico del bilancio regionale e del bilancio degli enti locali attraverso il quale poter portare avanti delle leggi di iniziativa popolare verso la regione, ma è anche, come dire, l'obiettivo nazionale, che possono in qualche modo risolvere la nostra questione generazionale, che possono darci l'opportunità di lavorare in Italia, di costruire il nostro futuro in Italia. Ecco, noi vogliamo fondamentalmente che andare via da questo paese non sia in qualche modo una costrizione, bensì vogliamo che sia una scelta. Certo, non condanniamo chi va via, questo è evidente, però noi abbiamo fatto una scelta e per ora la nostra scelta è quella di restare e di lavorare qui. E rispetto a questa cosa appunto ci stiamo dando degli strumenti. Noi a Napoli, ad esempio, stiamo lanciando anche un'iniziativa molto importante, secondo noi, rispetto a quello che è stato l'evento drammatico di qualche settimana fa su Città della Scienza, demolita e distrutta da un incendio doloso. No? Noi abbiamo pensato di fare, come dire, di riportare Città della Scienza nella città all'aperto, fare i laboratori almeno per una giornata che si facevano lì in piazza Plebiscito magari, e attorno a, e a fianco a questa cosa, come dire, allegare dei progetti rispetto al microcredito, rispetto alle forme di nuova occupazione e di innovazione che possono in qualche modo offrire l'opportunità sia a chi ha perso il lavoro, sia a chi quel lavoro lo vorrebbe, di restare qui e di investire proprio nel proprio territorio. Va bene, grazie. Allora, Federico Esposito, abbiamo dato conto anche di questa campagna. Io voglio restare, avete sentito di cosa si tratta. Noi continuiamo a parlare di come restare per i giovani in Italia e ci spostiamo a Rovereto. Per fare sì che i giovani possano rimanere in Italia anziché andare all'estero per trovare un lavoro e per farsi una carriera, un futuro, oltre alle condizioni note, strutturali di riforme di cui si parla e sono pieni i giornali da mesi se non da anni, ci vuole anche qualcuno che gli dia una mano concretamente a questi giovani a farselo questo futuro, a realizzarlo. Sicuramente una mano la danno quelli di Rovereto Hub, un incubatore di imprese sociali e sostenibili che si trova proprio a Rovereto. Ne parliamo, che lo abbiamo convocato, con Paolo Compagnano, che è cofondatore, uno degli animatori di questa iniziativa. Paolo, buongiorno. Buongiorno, Paolo Compagnano. Scusa, Compagnano, sono Compagnano. Un po' sonato. Paolo, prima di tutto, come il nome esatto, Rovereto Hub, oppure avete mutuato il nome che viene di un'iniziativa che viene dall'estero? Sì, infatti il nome è specificamente The Hub Rovereto. Facciamo parte della rete globale di The Hub, che è presente in tutto il mondo. Sì, appunto, nasce a Londra nel 2005, si è diffusa per iniziative di singole persone nei vari stati, nelle varie città, e in questo momento ci sono 32 esemplari di Hub in giro per il mondo, appunto da Londra ad Amsterdam a San Francisco, a Tel Aviv, a Melbourne, insomma, e anche in Italia appunto nel 2010. Siete arrivati voi nel 2010? Sì, appunto, è arrivato prima The Hub Milano, sì. E poco dopo siamo arrivati noi come The Hub. La parola hub, che cosa sta a significare prima di tutto? Significa perno, quindi è un po' il centro di una rete, diciamo. Hub ha questo ruolo di facilitatore, mettere in contatto, proprio la funzione che ha un po' il perno all'interno della ruota, anche della bicicletta, che collega tra loro tutti i raggi. Adesso poi spiegheremo bene di che cosa si tratta. Voi proprio, visto che abbiamo parlato dell'appello Io Voglio Restare, no? Che c'è in queste settimane, proprio per mettere in evidenza il fatto che c'è una generazione di persone, di ragazzi che vogliono restare in Italia e costruire qua il loro futuro. Voi siete tornati dall'estero per mettere su questa attività che è un incubatore per voi e anche la vostra impresa, insomma. Tu venivi da Londra. Sì, io appunto ho passato trascorso un periodo a Londra proprio per capire come poteva funzionare un'attività di questo tipo e riportarla poi in Italia. Per noi appunto The Hub, per noi tre soci fondatori, appunto insieme a Dalia Maci e a Iari Ognibeni, nel 2010 abbiamo avviato questa nostra attività imprenditoriale che favorisce la nascita di altre attività imprenditoriali, riprendendo appunto questo modello. Quindi per noi è stato comunque anche un motivo per rimanere qua e non andare altrove. Che cosa concretamente fate? Come funziona? Voi siete a Rovereto, in questa città, sì, dove probabilmente c'è anche l'attrattiva della cittadina tranquilla, dove si vive bene, si sta bene per molti motivi, città sostenibile, lo sappiamo. E certo. Poi però che cosa fate concretamente? Allora, noi a livello appunto globale, ma anche a livello locale, cerchiamo di creare delle comunità di innovatori sociali e imprenditori sociali, fornendo due tipi di servizi. Da una parte un luogo, uno spazio fisico dove poter lavorare, dove poter organizzare riunioni, dove poter organizzare eventi, avendo tutti quelli che sono i servizi che può offrire un ufficio piuttosto che appunto una location per eventi. Sì. E in secondo luogo offriamo una piattaforma online attraverso la quale tutti i 7.000 membri di The Hub nel mondo hanno la possibilità di incontrarsi, scambiarsi informazioni, collaborare. E soprattutto quello che facciamo è mettere in rete tra di loro persone che possono essere interessanti tra di loro, magari occupandosi di attività anche completamente diverse, però fornendogli una una base, proprio una base di partenza. Può sembrare, questo, insomma, magari così superfluo, oppure non lo so, non determinante, no? A chi magari non si è mai trovato nella situazione di portare avanti un progetto, invece condividere, avere risorse in comune è evidentemente importante, cruciale, insomma, questo lo dimostra il fatto che quante persone avete accompagnato in questi anni. E poi anche mi interessa sapere quali sono un po' i temi di cui si occupano le imprese che vengono da voi, cioè imprese anche molto innovative nel campo della sostenibilità. Certo, allora sono passate diverse decine di persone di Hub Rovereto, per quanto appunto il centro di Rovereto sia piuttosto piccolo. Diciamo che di Hub Rovereto è il primo hub che apre in un contesto non metropolitano, non di metropoli. È fondamentale lo scambio di competenze, ma anche il fatto di portare avanti la sfida di sviluppare un progetto imprenditoriale insieme ad altri, affrontare le stesse sfide che magari sta affrontando quello che è seduto nella postazione vicino alla tua, ti fa sembrare più accessibile, più affrontabile il percorso. All'interno di questi, da quando abbiamo aperto, appunto, tanti progetti sono passati di qua e che si occupano prevalentemente dall'innovazione digitale, quindi per esempio anche la stessa rete Friluna, che è una realtà che promuove il wifi gratuito in giro per le città, anche a Milano, io mi ci sono battuto, Milano, sì, infatti, sì, una realtà trentina, e fino a progetti che si occupano sia di risparmio energetico oppure di supporto all'inserimento lavorativo anche degli svantaggiati, quindi sì, quello che magari era anche un ambito di lavoro legato alla cooperazione sociale, eccetera, eccetera. Quindi sono svariati. La cosa interessante per noi è quando appunto due mondi completamente diversi tra di loro si uniscono per sviluppare un qualche cosa di nuovo, diciamo, e questo è quello che anche cerchiamo di far accadere. Senti Paolo, cosa chiedereste o chiedete? Insomma, adesso c'è un Parlamento che caoticamente, non si sa, sta decollando non è la parola più adatta, perché non è esattamente quello a cui stiamo assistendo, ma insomma alla politica, no? Cioè, che cosa potrebbe facilitare il lavoro che fate e che cercate di far fare a chi vuole fare, a questi giovani che vogliono fare impresa in Italia? Allora, senz'altro una sburocratizzazione, ma già si sta cercando, ci sembra, di andare in quell'ottica, quindi cercare di limitare tutti quelli che sono i cavilli burocratici e quello che è il peso proprio anche a livello lavorativo della burocrazia per chi sta avviando un progetto imprenditoriale. In secondo luogo è importante il riuscire a favorire l'incontro e la facilità di investimento per investitori privati all'interno di nuove iniziative imprenditoriali. Cioè, quindi facilitare l'incontro tra chi dispone in qualche modo di capitali, come le banche o anche i fondi, eccetera, e i progetti. Sì, questo è un altro elemento fondamentale, creare delle situazioni che siano vantaggiose, interessanti. Cioè, dovrebbero farlo le banche questo, no? Però forse non lo fanno abbastanza e quindi... No, per esempio noi appunto siamo in rete anche con la realtà dei business angels, sì, che appunto sono investitori privati che decidono di investire parte del capitale e competenze in nuove iniziative imprenditoriali, e riuscire a far sì che questo diventi sempre più attrattivo per altri tipi di investitori, questo sarebbe qualcosa che la politica può provare a fare e a portare avanti. Vabbè, insomma, noi giriamo questo piccolo mini telegramma che viene da The Hub Rovereto alla politica, e speriamo che ne tengano conto. Intanto buon lavoro, grazie per quello che fate, e quando avrete qualche altra evoluzione da raccontarci, noi saremo sicuramente qua per ascoltarvi. Intanto grazie. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah.

Sì, allora noi quello che consigliamo appunto di rivolgersi al proprio veterinario, perché come hai accennato c'è la possibilità di avere queste cose ad un prezzo particolarissimo, addirittura, ecco questo è importante, in alcuni casi anche gratuitamente. E quindi questo, tanto meglio, no? È certo. In alcune situazioni sicuramente può essere molto utile. E quindi rivolgendosi al proprio veterinario, ripeto, in questo caso Roma e Milano, si possono avere indicazioni. E, in alternativa io posso dare il numero verde. E diamolo, sì. E che è 800 07 7315. Perfetto, così abbiamo dato anche questo. Grazie Michele Caricato, l'iniziativa è questa, il taxi per gli animali e per chi deve portarli dal veterinario, in particolare a Milano e Roma. Per oggi ci fermiamo qua con le nostre storie, con le nostre notizie. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni su Facebook, su Twitter. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Fabio Cantadori in regia, a me mi trovate su Twitter @AleMaurizzi, ci risentiamo sabato prossimo a mezzogiorno, buona giornata.